Dunque, qualsiasi cambiamento. stiamo discutendo questa mattina sull'io, le parti interne. Molte persone dicono: no, ma io ho capito quello che devo fare, però c'è una parte di me che si arrabbia comunque, no? E io non so come gestirla, è come un cane, dovrei portarlo in un canile, perché se no non sta zitto. E io ti posso dire, se questa parte interna agisce con questa forza, sei tranquillo che il tuo governo non è a posto, è corrotto. Ma no, ma io so benissimo che non bisogna fare questo. No. Beh, se lo sapessi davvero ti comporteresti diversamente. Sì, ma questa parte mi scappa da sola. Certo che ti scappa da sola, ma dopo te ne accorgi. Sì, e cosa fai dopo che te ne accorgi? Beh, mi dispiace, sì, certo, vorrei non averlo fatto. Sì, quello non è possibile. Quindi cosa fai? Mi sento in colpa. Appunto, hai un governo inefficiente, è un governo che sa solo penalizzare, far del male a sé e ad altri. Cosa fa un buon governo di fronte a una cosa del genere? Si dispiace, si scusa, cerca di rimediare. Esatto. E sai che se fa questo cosa accade? Che dopo un po' la rabbia non viene più. Perché alla rabbia segue il lavoro piuttosto faticoso di dover passare attraverso il dolore, le scuse, la sofferenza. Fatto 1, 2, 3, 10 volte, qualunque sistema biologico il dolore lo evita, quello che può evitare. Capisci? E quindi impara a non farlo più. Se ogni volta che mi arrabbio, anziché farla subire ad altri, la pago direttamente io la cosa, tutta io, e l'altro rimane senza punizione, stai tranquillo che dopo 4, 5, 6 volte non lo fai più. Se uno capisce questo, capisce che questa pratica è altrettanto potente del Tonglen, prende il dolore, cioè io devo prendere, in questo caso è meno del Tonglen, perché tutto sommato mi prendo solo la parte che io ho buttato sull'altro, l'altro è innocente, me la sono beccata e gliel'ho buttata addosso. Prendersi indietro questo pezzo di dolore è molto faticoso, anche perché va a cozzare contro l'orgoglio, quindi contro le parti narcisiste che sono tremendamente attaccate a questa cosa e al potere. Quindi è una struttura di antipotere. E io credo ormai soltanto alla terapia come ricerca di strutture di antipotere. Tutto il resto per me sono acqua fritta, non contano nulla.